Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Bentrovati con Soinfo, la rubrica radiofonica settimanale che vi accompagna nell'approfondimento dei temi della salute della società, osservandoli con sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine, che questa settimana propone una puntata, speriamo davvero utile a molti ascoltatori e ascoltatrici. Dopo aver approfondito nelle settimane precedenti cosa sia la menopausa, d'ora in poi tratteremo gli aspetti della salute maggiormente connessi con questo periodo della vita delle donne, fornendovi oggi una panoramica attraverso le 10 regole d'oro per viverlo con consapevolezza. Regola 1. Tenete un calendario del ciclo mestruale. Segnare la data della mestruazione è una buona abitudine sempre, ma soprattutto dopo i 40 anni, per riconoscere piccole variazioni nel ritmo e nella quantità del sanguinamento, oltre che nella comparsa di sintomi correlati al ciclo mestruale e di sanguinamenti irregolari. Regola 2. Informatevi, se possibile, sull'età dell'ultima mestruazione materna. Anche la nonna può essere utile. È molto frequente che nella famiglia ci possa essere una predisposizione genetica ad entrare in menopausa con un certo anticipo ed è meglio esserne consapevoli. Regola 3. Fate una visita ginecologica periodica e seguite regolarmente i programmi di prevenzione come il Pap test e il sangue occulto nelle feci. Regola 4. Tenete il peso corporeo sotto controllo. È normale aumentare di peso con l'età e dunque bisogna ridurre un po' il numero delle calorie ingerite, ma soprattutto aumentare l'attività fisica, soprattutto all'aria aperta, per stimolare il metabolismo. Regola 5. Tenete d'occhio il giro vita. Misurare con il metro da sarta la circonferenza della vita e dei fianchi è un semplice gesto di prevenzione cardiovascolare. Regola 6. Misurate regolarmente la pressione arteriosa. Anche donne che sono state sempre ipotese possono avere rialzi della pressione arteriosa con l'avvicinarsi della menopausa. Regola 7. Determinate annualmente i valori di glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL buono e trigliceridi. Se i valori sono sulla soglia del rischio, è opportuno controllare l'alimentazione e confrontarsi con il proprio medico. Regola 8. Fate un'autopalpazione mensile della mammella e almeno una mammografia tra i 40 e i 45 anni. Il riscontro di un nodulo mammario inferiore di un centimetro è fondamentale per una diagnosi precoce salvavita e la determinazione dell'entità della densità mammaria è un fattore importante per una stima del rischio individuale di tumore della mammella. Regola 9. Fate un esame di coscienza sulle cattive abitudini, fumo e alcol soprattutto. La menopausa è l'occasione d'oro per ripensare alla propria salute in un'ottica preventiva. Regola 10. Ricostruite, se possibile, la storia familiare. Le malattie materne e paterne sono fondamentali per guidare un progetto preventivo sul versante oncologico, del rischio cardiometabolico e cerebrovascolare, oltre che sulla possibilità di andare incontro ad una frattura ossea. Soinfo, salute e società, punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana.